Zot. Fulminati in azienda. Buongiorno Pacco, ti ho fatto venire così presto perché dobbiamo impostare questa campagna pubblicitaria e ci sono tantissime cose da fare. Ah, ma certo, ma se un onor non la si stia a preoccuparsi, 10 anni che vengo presto la mattina e vado fuori tardi la sera. Bene, bene, allora prendi appunti, cominciamo. Sì. Alle 9 appuntamento con la Gordon Bramwell. Sì. Alle 10 degustazione delle tartine per la convention. Alle... Ma mi segui? Ma che fai? Leggi le mail? Mi scusi, dottoressa, ma se è successa una roba grossa, ma se la rivoluzione... Cos'è successo? Sei una disposizione organizzativa. Il dottor Centrifuga si diventa direttore generale. Direttore generale Centrifuga? Ma non è possibile. Sul pezzo dove sta? Sul pezzo si è sceso di una posizione. Ma veramente una rivoluzione? Sì. Mamma mia, una rondina non fa primavera, ma mi sa che qui arriva tutto uno stormo. NCS, non ci siamo, ma qui è un incubo, non è possibile, cos'è la rivolta degli schiavi? Ma veramente, incredibile, ma cosa facciamo adesso? E adesso cosa facciamo te lo dico subito, intanto A, vado a parlare col presidente, cerco di capire cosa è successo, e poi B, cerco una nuova azienda, perché io subalterno non ci torno. Se è permesso, devo portare dentro le piante. Ma cos'è, cosa sono sti alberi, cosa c'è Paco? Sei le piante dirigenziali de Centrifuga, due platani nani, hai mega dito di dirghe che devo però levarghe le sue chenze, perché tra un'ora el se impossessa della sua stanza. Cari subalterni, vi ho fatto convocare per dirvi le mie idee sul business, la mia vision. Intanto grazie a Sul Pezzo per aver condotto bene o male sta azienda fin qui all'inizio da nuova era, l'era dell'oro. Altro che oro, andremo a picco qui. Diceva, scusi, non ho capito bene. No, non ho niente, guardi, anzi, ecco. La ringraziavo per avermi ringraziato pubblicamente. Bravo, anche perché per te Sul Pezzo c'è un'importante opportunità fin da subito. Una cosa che solo un uomo fidato come te può fa. Me devi svuotare tutti gli archivi delle fatture dal 1950 a oggi e ricatalogarle per ordine alfabetico. Ma perché? Ma è un lavoro inutile. O dici te che è inutile, e invece io dico che è utile, molto utile. Si può? Posso entrare? Sono schedula. Veramente il dottore è in vasca a fare l'idromassaggio. L'idromassaggio? Sì, è il se che ha fatto portare una vasca idromassaggio spesandola come noleggio tecnico. Yeah, schedula, falla entrare. Allora, schedula, sì. Via qua, mi devi fare un bel piano di incentivi, sì, per direttore generale, che poi sarebbe io, se non te ne eri accorta. Sì, certo che me ne sono accorta, Centrifuga, ci mancherebbe dottor altro. Dottor Centrifuga, per favore. Sì, perché, ecco, c'è una cosa che devo dirti, anzi, che dobbiamo dirti. Entrate pure. Permesso, direttore ciao, generale, possiamo... Ciao, certo. Ma che è sta resta? Mi sto a rilassare, sto a creare strategie, ve volete andare? Che è sta? 1, 2, 3. Buon pesce d'aprile! È tutto uno scherzo. È tutto uno scherzo, Centri. È stato un pesce d'aprile di schedula, Centrifuga. Pensa, quelli del personale si sono messi pure a fare gli scherzi. Che male. Ma sì, abbiamo pensato che poteva essere una cosa leggera. Male, non scherzare, dai. Ma non scherzare, ma quale male, dai, c'è il solito attacco d'ernia iattale, dai. Tiratelo fuori e riportatemi le chenze. Dai, su, veloce, che si riprende a lavorare. A proposito, Centrifuga, c'è una cosa urgentissima. Archiviare le fatture dal 1950 a oggi. Un lavoro molto utile. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O 1T.